guardandole sulla webcam. Ora dovrai conquistarle tutte e due per non fare figuracce di merda sotto coperta. La tua amica troppo amica non sa come soddisfare la sua fame di vendetta verso essa. Ora dovrai conquistare pure lei per non fare figuracce di merda con l'altra fetta di pubblico cazzuto che vuole un grande artista capofila di un esercito di fan con l'apostrofo e l'imbuto. Vizi macinati tipo sabbia messicana, metti in fila le scimmiette di fronte a questa banana. Con la perversione per la professione, quella macchietta di luce produce un foro sul cuore. Domani spetto con le sighe, fumo solo più le bombe. Ma domani è già quest'oggi e fumo ancora sighe e bombe. Mi squillano le bionde, le squillo e non risponde. La mia squillo si è gettata giù da un ponte. Hai più bisogno di affetto che di scopate. Pensare che alle volte scopando l'effetto è uguale. Massimizza i regalini e dona pony vibration. Una tipa fantasiosa è come il body suspension. Simbologia di pari, requisiti minimi. Se cerchi trovi bene in questa stiva di invisibili. La freccia è pronta e sta per essere scoccata. Porta il nome di una tomba in onore di ogni sua amata. La situa bella mia non è così complicata. Si fa quel che si deve dopo bocca sigillata. La tua bella ti ha lasciato per un'altra mentre tu ti masturbavi guardandole sulla webcam. Ora dovrai conquistarle tutte e due per non fare figuracce di merda sotto coperta. La tua amica troppo amica non sa come soddisfare la sua fame di vendetta verso essa. Ora dovrai conquistare pure lei per non fare figuracce di merda con l'altra fetta di un pubblico fasullo che vive in una scatola ed intrappola una macchina del sesso dentro un fotogramma buio. Mi immagino una società dell'acido in cui funzionano bene due tricheche che si sfondano. Queste si sdraiano l'una sopra quell'altra luna. C'è già la calca, la luna sorge già alta e dal terzo canale la schiuma porta alla calma inumidendosi le labbra di una bocca che non parla. Sotto coperte un brivido da contatto. Le tope ballando da sole si fanno annusare dal gatto. In una stanzetta d'ore confessano quel peccato. Hai dato una mela al signore col serpente sorreccitato. Pathos, patologia mentale di un MC dotato. Tu patata ornamentale di un rapper un po' datato. Dato dato quel che gli dovevi ma dopo averlo prezzato vuole un altro donatore del seme che gli hai piantato. La tua bella ti ha lasciato per un'altra mentre tu ti masturbavi guardandole sulla webcam. Ora dovrai conquistarle tutte e due per non fare figuracce di merda sotto coperta. La tua amica troppo amica non sa come soddisfare la sua fame di vendetta verso essa. Ora dovrai conquistare pure lei per non fare figuracce di merda con l'altra fetta. Ti pubblico una foto e poi boh, basta.